4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Amici dei motori, buonasera, bentornati ancora una volta al programma di Motori di Radio 24 in collaborazione con gli amici di Quattro Ruote. Allora, Peter Bescapè mi segue in regia, Roberto Rasia al microfono per farvi vivere tre quarti d'ora interamente dedicati al mondo dei motori. Guardate che questa sera ci sono davvero tantissimi argomenti interessanti. Si parte con una prova davvero singolare, è un confronto fra due auto in realtà molto diverse. Voi direte: perché le avete confrontate? Perché hanno entrambe lo stesso motore, un 1.4 GPL, da una parte la Mini del gruppo BMW, dall'altra la Tata Indica o Indica, che dir si voglia. La proveremo insieme a Marco Ghezzi di Quattro Ruote, che è già in onda. Caro Marco, buonasera. Buonasera a tutti, ciao. Il tuo collega poi Marco Perucca ci farà vivere qualche brivido, ci farà salire a bordo della nuova Ferrari 458 Italia, che raccoglie l'eredità pesante della 430, uno dei gioiellini sportivi più riusciti della casa di Maranello, e poi un confronto interessante fra le gomme invernali. Sapete che quando cala la temperatura sotto i 7 gradi è assolutamente necessario montare per la propria sicurezza le gomme invernali. Cercheremo di capire quali vanno bene e quali vanno invece male. Due inchieste per chiudere, molto simpatiche, sui comportamenti degli automobilisti. Uno: che cosa fanno gli automobilisti quando si arrabbiano? Ce ne parla assicurazione.it. E poi un'inchiesta di Decra invece, che riguarda i camionisti e gli automobilisti, con il loro rapporto spesso difficile. Tutto questo da qui fino alle 21.45 con Quattro Ruote e dintorni. Caro Marco, a te la parola per l'introduzione di questo confronto. Sì, dunque, questo è un confronto un po' particolare, di quelli improbabili che ogni tanto facciamo a Quattro Ruote. Abbiamo voluto mettere a confronto due macchine, la Mini, che è un'auto alla moda, con la Tata Indica, che invece è un'auto essenziale, un'auto indiana poco conosciuta, che in comune hanno ben poco, se non il fatto che di recente tutte e due, soprattutto la Mini, hanno adottato anche l'alimentazione a GPL. Quindi su questa base abbiamo fatto un confronto dove evidentemente la Mini è destinata a emergere, a vincere, e la Tata invece a perdere. Però ci sono degli aspetti, anche perché il prezzo è decisamente diverso, però ci sono gli aspetti che possono, diciamo, mettere in discussione tutto. Lo vedremo magari adesso nella discussione. Sì, perché siamo pronti ad ascoltare i dati principali della scheda, che va a riassumere le caratteristiche di entrambe le auto. Appartengono a due mondi diversi e sono agli antipodi anche nel prezzo. Ma di questi tempi, Indica e Mini trovano un punto di incontro nell'alimentazione a GPL, grazie alla quale entrambe le versioni puntano a catturare l'attenzione degli automobilisti più sensibili al risparmio, sia sul prezzo di vendita che sui costi di gestione. Due auto concettualmente differenti, una essenziale, dignitosa ma poco emozionale, l'altra più modaiola, ben fatta, ma con un'abitabilità inferiore. Una sfida alla ricerca del miglior rapporto prezzo-contenuti. Nome: Mini 1.4 16 valvole RAI-G, Indica 1.4 B-Fuel GPL. Carrozzeria: Mini 3 porte a 4 posti, Indica 5 porte a 5 posti. Dimensioni e pesi: Mini, lunghezza 3,69 m, larghezza 1,68 m, peso 1.090 kg. Indica, lunghezza 3,67 m, larghezza 1,66 m, peso 1.130 kg. Motore, per entrambe, anteriore trasversale, 4 cilindri. Potenza, Mini a benzina 75 cavalli, a GPL 71 cavalli. Indica a benzina 85 cavalli, a GPL 82 cavalli. Trasmissione, Mini, trazione anteriore, cambio manuale a 6 marce. Indica, trazione anteriore, cambio manuale a 5 marce. Prezzo con incentivi e sconti: Mini 14.551 euro, Indica 6.531 euro. Allora, queste erano le caratteristiche di queste due auto. Beh, vogliamo partire dal fondo. Tu avevi citato i prezzi ed eccoli svelati, Marco. Sì, i prezzi sono di partenza abbastanza alti per tutte e due, perché 19.000 e 11.000 sono prezzi abbastanza importanti. Poi, tenendo conto degli sconti e delle agevolazioni fiscali per l'alimentazione GPL, raggiungono livelli abbordabili, diciamo. Decisamente. Quando invece vi siete messi alla guida di queste due vetture, che cosa avete scoperto? Ci sono tante differenze? Ci sono enormi differenze, perché si tratta di auto di due generazioni diverse, tant'è vero che la Indica L'anno prossimo verrà trasformata, ci sarà una nuova versione. La Mini è un'auto divertente, con un ottimo sterzo, un cambio pregevole, un motore non particolarmente potente ma gradevole. L'Indica è effettivamente decisamente meno dotata su strada, si fa un po' più fatica, uno sterzo molto lento, un po' approssimativo, anche il cambio diciamo ha delle resistenze. L'unico vantaggio sostanziale, a parte l'aspetto del costo, è che l'Indica, oltre ad avere un numero di porte superiori, è un po' più abitabile da quel punto di vista, quindi è più grande. Chiaramente. Bagagliai invece sono sostanzialmente identici, non sufficienti per quattro persone. Su entrambe ovviamente queste vetture, sì. Lo sappiamo, sì. Del resto hanno lunghezze inferiori abbondantemente ai 3,80 m, 3,70 m, perché siamo sui 69-67. È giusto se dico che probabilmente un acquirente o potenziale tale della Mini non comprerebbe mai una Tata Indica e viceversa? Con ogni probabilità sì, però considerando la situazione, considerando che a questo punto la crisi eccetera, è possibile che magari qualcuno si metta in mente che vabbè, per un breve periodo acquisto un'auto che con poche migliaia di euro mi consente di tirare avanti un po' e a GPL ho dei risparmi e poi magari più avanti prendo l'auto che mi piace di più, ecco, questo potrebbe essere diciamo… La filosofia di acquisto, è chiaro. Senti, ti viene in mente Dacia quando si parla di Tata Indica in questo caso, anche se Dacia fa auto un pochino più grandi, ma la filosofia low cost potrebbe essere quella? Sì, anche se la Dacia ha già un livello leggermente superiore, perché è un pochettino, cioè è sul mercato europeo, con diciamo un peso della Renault un pochettino da più tempo e quindi magari ha dei prodotti diciamo un po' più avanzati, ma probabilmente anche la Tata nel giro di poco arriverà sui mercati europei anche con prodotti adeguati appunto al mercato europeo. Molto bene, grazie per ora a Marco Ghezzi di Quattro Ruote, a presto e buona serata Marco. Grazie, grazie. Noi chiudiamo questo confronto con la pagella di Quattro Ruote. Posto guida, senza evidenti difetti sulla Tata che però ha il volante fisso, quasi perfetto quello della Mini. Mini 4 stelle e mezzo, Indica 3 stelle e mezzo. Finiture, materiali economici e finiture modeste per la Indica, assemblata con cura la Mini. 4 stelle e mezzo la Mini, 2 stelle la Indica. Comfort, elevato il disturbo acustico sull'Indiana, più comoda e meno rumorosa l'inglesina. Mini 3 stelle, Indica 2 stelle e mezzo. Su strada, l'Indica soffre un po', non dispone nemmeno di ESP. Molto più piacevole guidare la Mini. Mini 4 stelle e mezzo, Indica 2 stelle. E così chiudiamo anche la prova di questa settimana. Il confronto lo trovate naturalmente lunedì sul web radio24.it. Allora, parliamo adesso di gomme invernali. Sapete che quando le temperature scendono sotto i 10 e più precisamente sotto i 7 gradi, che è un po' il limite di utilizzo della gomma estiva, bisognerebbe montare le gomme invernali per tutti coloro che vivono in zone soggette a questo freddo. Ovviamente anche le catene di cui abbiamo parlato recentemente aiutano molto, ma sulla neve il problema qui non è solo la neve, ma è anche il bagnato e anche l'asciutto, magari a 2 gradi sotto zero e a 3. Cosa succede? La mescola degli pneumatici estivi non va bene chimicamente per queste strade così fredde, per l'ambiente così freddo, mentre va benissimo a 30 gradi il 7 luglio. E allora che si fa? Le gomme invernali, devo dire, sono state una bella rivoluzione negli ultimi 5 anni, anche se esistono da più tempo, ma ce ne siamo accorti solo qualche anno fa. Grip, grip, urrà! Titola Roberto Boni su Quattro Ruote a pagina 180. Ha messo a confronto 6 gomme invernali diverse, dentro cui insomma in realtà c'è anche un estivo e un tutto stagioni, o 4 stagioni se vogliamo chiamarlo così. Caro Roberto, buonasera e bentornato. Buonasera Roberto, un saluto agli ascoltatori. Se tu dovessi riassumere agli ascoltatori questa prova, nel caso non l'avessero letta, quali sono gli elementi più importanti, Roberto, che diresti loro? Sicuramente io direi la necessità assoluta dei pneumatici invernali sulla neve rispetto agli estivi odierni, perché ho riassunto una cosa che è abbastanza impressionante. Frenando da 50 km all'ora, quando sulla neve, quando si è fermi con una macchina con i pneumatici invernali montati, con quella con i pneumatici estivi si va ancora a 35 all'ora. Questo è incredibile, 35 km orari mentre l'altra con gli pneumatici invernali si è già fermata, sulla neve questo? Sulla neve, se vogliamo dare uno spazio di frenata si parla di circa 28 metri con gli invernali e 75 con gli estivi. Mamma mia, è più del doppio, quasi il triplo. No, è praticamente il triplo, quindi Questo dà solo in una parola il divario di prestazioni enorme che c'è sulla neve tra i pneumatici invernali e quelli estivi. Tant'è vero che nelle prove che abbiamo fatto c'è anche una prova di comportamento che comporta il transito su un tratto di strada in salita, sì. E ovviamente non ci siamo neanche mossi con gli estivi, non l'abbiamo neanche fatta, mentre invece con gli invernali si viaggia tranquillamente, anzi anche piuttosto allegramente, tanto da dover poter confrontare tra di loro le caratteristiche dell'uno dell'altro. Quindi invernali sicuramente sulla neve, però non solo, perché Bridgestone, Continental, Goodride, Goodyear, Michelin e Pirelli, queste sono le marche degli pneumatici provati, sono stati provati anche sul bagnato e anche sull'asciutto. E qui qualche sorpresa in più c'è, Roberto? Sì, perché come tu dicevi quando hai introdotto questa intervista, quando la temperatura scende il pneumatico estivo perde un po' le sue caratteristiche di aderenza, perché la mescola si irrigidisce, non è adatta ad affrontare temperature molto basse, e qui entra in gioco appunto l'invernale, che anche se non c'è neve, ma in quelle condizioni che si incontrano spesso in inverno, quindi la strada bagnata o anche umida, ma può esserci anche magari qualche punto un po' ghiacciato e così via, ha un'aderenza decisamente superiore l'invernale rispetto all'estivo, e quindi anche se non c'è neve, in quelle condizioni l'invernale fa la differenza. Ecco, quindi sono avvisati tutti coloro che abitano nelle zone naturalmente dove la temperatura è bassa, soprattutto da adesso, da ottobre, novembre, fino almeno a febbraio-marzo. Cosa succede a tutti coloro che vivono per esempio sul mare, e in Italia sono tanti, beati loro, che magari durante il weekend vanno a fare una cena negli interni e rischiano addirittura temperature sotto zero? Tu consiglieresti loro di montare gli invernali anche se poi magari in città ci sono 7, 8, 9, 10 gradi? Ma guarda, sostanzialmente sì, perché comunque nelle condizioni prettamente invernali, quindi freddo, gelo e anche a maggior ragione neve, gli invernali hanno delle prestazioni, come abbiamo visto, assolutamente superiori agli estivi, mentre quando ribaltiamo la situazione siamo in condizioni più adatte agli estivi, le differenze tra l'estivo e l'invernale non sono così marcate, quindi che c'è un piccolo sacrificio, ma con un grande vantaggio quando invece la situazione si ribalta e il freddo si fa intenso. Ultima cosa e ci salutiamo, Roberto. A pagina 187 c'è il comportamento su bagnato. Lì invece ho avuto una sorpresa. Quindi, pneumatici invernali, dicevamo, sempre quando la temperatura è sotto i 7 gradi, forse la prova è stata fatta a cavallo dei 7 gradi, però lo pneumatico estivo ha impiegato molto meno tempo sul giro rispetto a tutti quelli invernali. Come mai allora? Ma guarda, anche qui appunto diciamo che abbiamo trovato le condizioni per un relativamente favorevoli al pneumatico estivo, e comunque i migliori, il grosso dei pneumatici estivi e invernali ha delle prestazioni molto vicine a quelle dell'estivo, anche in queste condizioni non particolarmente favorevoli, tranne il pneumatico cinese, che invece era decisamente a disagio sul bagnato e praticamente era, direi, quasi pericoloso. Mentre sulla neve si è comportato bene, sono neve, veramente sì, incredibile. La trazione frenata andava bene, mentre invece in handling, già in guida, non era granché. E quindi quattro stagioni ai cinesi ci piacciono meno e gli invernali ci piacciono decisamente di più degli estivi per quanto riguarda le temperature basse. Grazie davvero a Roberto Boni, a presto e buona serata. Grazie a voi, a presto. Tenete conto che molti gommisti fanno anche un servizio di ricovero con temperatura controllata in alcuni magazzini degli pneumatici, per cui è vero, si spende di più perché devi comprarti quattro gomme, è importante cambiarne sempre quattro, mai due, se no si rischia il testa coda. Però è vero, si spendono dei soldi, ma in realtà durano il doppio gli pneumatici, perché sono 8 in tutto invece che 4 con due cambi stagionali. Marco Perucca, dal medesimo mensile, buonasera e bentornato. Ciao Roberto. Marco, non so se la tua prova è stata fatta sull'asciutto, me lo auguro per te, ma è stata davvero importante perché hai avvicinato, diciamo così, la Ferrari 458 Italia, l'ultima Ferrari, erede della 430, ma mi dicevi al telefono qualche giorno fa già tutto un altro mondo, vero? Sì, è un'auto veramente innovativa che segna un passo avanti consistente rispetto alla precedente produzione Ferrari, un'auto studiata nei minimi particolari, proprio indirizzata sulla guida sportiva, sulla guida estrema. Molto quindi di più rispetto a prima, e già lo era decisamente. Presentiamola ai nostri ascoltatori con dei numeri, ti chiedo magari la cilindrata, la potenza di questa vettura e anche il prezzo che sfiora i 200.000 euro. Il cuore di questa nuova Ferrari è un 8 cilindri, a V di 90 gradi di 4,5 litri di cilindrata, che però adesso adotta l'iniezione diretta di benzina. A doppi variatori di fase, un nuovo sistema risonanza per i condotti di aspirazione, insomma arriva a erogare la bellezza di 570 cavalli a 9.000 giri minuto, e questa è una novità, i 9.000 giri minuto che non sono mai stati avvicinati da un motore stradale. È un regime altissimo effettivamente. È una cosa da auto da corsa, già i precedenti 8.500 erano elevati, ma 9.000 sono veramente tanti. E poi c'è la coppia massima che raggiunge i 540 Nm per un 4.500, quindi sono tantissime, a 6.000 giri minuto, quindi un motore molto pieno, consistente, fin dai regimi più bassi, ma poi con una rabbiosità quando si supera nei 6.000 giri, che è una cosa da auto da corsa, veramente. Come si fa a migliorare invece l'assetto, il telaio di un'auto che era già riuscitissima? Beh, anche lì devo dire i tecnici di Marina sono stati molto bravi, tanto il telaio è nuovo completamente, le sospensioni anche esse sono state riviste, soprattutto quelle dietro adesso adottano lo schema multilink e non più a quadrilatero, hanno aumentato moltissimo la rigidezza sia della sospensione sia del telaio, e a questo punto ne è venuto fuori un retrotreno estremamente saldo, sia di quelli che danno grande sicurezza, sì, e grande, sì, affidabilità, ma anche un avantreno estremamente incisivo, tanto che sono riusciti a ridurre il rapporto sterzo da 16:1 a circa 10:1, cioè vuol dire che per 10 gradi di sterzo si ha un grado di rotazione delle ruote anteriori, che è tantissimo. È tantissimo addirittura, certo, quasi sembra uno sterzo diretto. Sì, uno sterzo diretto, rapido, pronto, ma che se non ben supportato da un retrotreno saldo potrebbe mettere sulla pressione, a cui si aggiunge anche il discorso aerodinamico, che è ulteriormente migliorato, la macchina è curata moltissimo, sotto questo punto di vista ci sono tante piccole diavolerie dei flussi d'aria che passano dal cofano, escono sui passaruote per tagliare la portanza dei passaruote, si sfrutta la deportanza creata dalla pressione nei passaruote per avere carico aerodinamico. Morale, questa macchina a 300 all'ora credo 360 kg di carico aerodinamico, comunque più di 300 kg di carico aerodinamico, che sono tantissimi, e questi ovviamente aiutano quando certo, si va forte. Certo, l'avete capito, si parla di un'eccellenza italiana di cui siamo tutti orgogliosi, un'eccellenza che costa tanto, ho sentito parlare di più di 190.000 euro, del resto i numeri uno costano. Grazie davvero di cuore a Marco Perucca, a presto e buona serata. Un saluto a tutti i radioascoltatori, arrivederci Roberto. Dunque, ve l'avevo promesso in apertura ed ecco che si parla di comportamenti degli automobilisti, perché in realtà all'interno dell'abitacolo ne combiniamo di tutti i colori. Allora, cosa facciamo quando qualcheduno ci fa uno sgarbo, ci taglia la strada? Purtroppo abbiamo questa mania di arrabbiarci, e parleremo anche delle arrabbiature degli automobilisti. Lo facciamo in realtà su spunto di assicurazione.it, un'azienda che è stata nostra ospite l'anno scorso insieme ad altri competitor. Non parleremo di assicurazioni oggi con loro, ma attraverso TNS hanno fatto una ricerca che si chiama Il volante della discordia, e ne parliamo con l'amministratore delegato di assicurazione.it Alberto Genovese. Allora, caro Genovese, buonasera, bentornato. Buonasera. Cosa vi è venuto in mente di fare questa inchiesta, questa ricerca, come mai? La ricerca per noi era utile soprattutto per indagare sugli incidenti che gli italiani si trovano a far fronte e il modo come risolvono il pagamento, o con la rivolgendosi all'assicurazione pagando direttamente. Nel corso della ricerca abbiamo poi trovato anche alcuni spunti che ci potessero aiutare per idee di marketing e comunicazione, tra cui appunto i litigi che spesso accadono a seguito degli incidenti. A questo punto invece, Alberto, raccontaci un attimo, facciamo il punto della situazione anche su assicurazione.it per chi non la conoscesse, e poi partiamo con la ricerca. Assicurazione.it è uno strumento messo a disposizione dell'automobilista che consente di confrontare le tariffe delle diverse compagnie assicurative. Noi sappiamo che i prezzi dell'assicurazione sono profondamente diversi a seconda del profilo della persona, che ogni persona ha una tariffa unica dalle diverse compagnie, e noi consentiamo in poco più di un minuto, anziché passando un weekend intero, di scoprire i prezzi di tutte le compagnie. Decisamente. Allora, parliamo della ricerca Il volante della discordia, partiamo dalle arrabbiature. Che cosa avete scoperto? Quali sono i risultati più importanti da raccontare agli nostri ascoltatori? Ma la curiosità che ci siamo tolti è che nel corso degli ultimi 12 mesi più di l'83% degli italiani ha avuto almeno un litigio verbale con una controparte. cioè 28 milioni di guidatori, con ovviamente una maggiore reattività degli uomini rispetto alle donne. Beh, sicuramente questo è già un dato che non tutti forse si aspettavano, che conoscevano, ma non così nel dettaglio. E poi sulle arrabbiature? Abbiamo scoperto quali sono le principali cause di discordia. Ah, bello questo. La cosa che è risultata maggiore, la principale fonte di litigio, sono le manovre pericolose, sì. Che è stata indicata come causa principale da quasi 17 milioni di italiani, il 59% del nostro campione. Mentre invece era curioso vedere come le zone in cui si arrabbia di più sono il centro-nord, mentre al sud probabilmente l'approccio vivi e lascia vivere è più diffuso e le percentuali di persone che hanno reagito in modo nervoso o isterico scende significativamente. Quali sono invece le infrazioni più diffuse? Le infrazioni più diffuse sono, anche in questo caso, con una grossissima, con grosse differenze tra gli uomini e le donne. Al primo posto c'è il superamento dei limiti di velocità, commesso dal 56% del campione o addirittura 16 milioni di persone, molto più diffuso tra gli uomini che per le donne e molto più diffuso nel nord piuttosto che nel sud. Beh, già, è molto interessante questo, perché vedi, ci sono anche delle differenze ovviamente geografiche, regionali, ci sono luoghi dove si compiono alcune infrazioni che al sud magari non vengono o verbalizzate, poi bisognerebbe vedere anche quali non vengono verbalizzate in realtà o sono meno diffuse, ed altre che invece fanno il contrario. C'è poi un'abitudine particolare, visto che parliamo in questa fase finale della nostra trasmissione di abitudini dei nostri automobilisti, di tutti noi in realtà, che è quella di pagare il risarcimento privato quando c'è un incidente. Ce la spieghi esattamente quanto è diffusa? Sono stati circa 1,5 milioni di persone che nel corso degli ultimi 12 mesi, anziché rivolgersi alla compagnia di assicurazione, hanno pagato direttamente il danneggiato a seguito di un incidente, e con un costo medio di circa 250 euro. La curiosità in realtà è che rivolgendosi, c'è una forte incoerenza nel comportamento della persona che paga in contante, preoccupato di scappare di classe di merito e quindi doversi trovare a far fronte a dei premi molto più alti nel mese successivo, nell'anno successivo. Allo stesso tempo però quella persona raramente si utilizza servizi come il nostro sito, come assicurazione.it, che facciano lo aiutino nella ricerca della polizza più efficiente, perché se così facessero risparmierebbero molto di più dei 250 euro che pagano in contanti. Ricordiamoci poi che le assicurazioni, come tu ci insegni, ovviamente scalano un bonus ogni anno in cui non si ha un incidente, ma ne scalano due, vero, nel momento in cui il malus viene applicato se c'è un incidente con colpa. Assolutamente sì, quando c'è un incidente il premio medio aumenta di circa 100 euro all'anno, mentre le differenze tra le compagnie, tra la più cara e la più economica, sono spesso anche di 400-500 euro. Molto bene, grazie davvero ad Alberto Genovese, l'amministratore delegato di assicurazione.it. A presto e buona serata. Grazie, a presto. E rimaniamo però nel campo dei comportamenti. Abbiamo parlato di arrabbiature, di quando veramente perdiamo la pazienza in auto. Capita spesso di farlo con accanto dei camionisti. Allora si apre il grande tema: ma guidano meglio gli automobilisti o i camionisti? Perché tutti i camionisti ce l'hanno con gli automobilisti dicendo che sono incapaci, e perché tutti gli automobilisti odiano i camionisti? È sempre stato un rapporto molto difficile. In realtà ci sono dei punti di contatto, ci sono delle differenze. Se ne è occupato tra l'altro Decra nel rapporto sulla sicurezza stradale, che è un rapporto molto serio sugli incidenti. Abbiamo estrapolato con loro dei dati interessanti che ci darà il direttore generale della sezione Revisioni Italia, Andrea Dalisca, da Decra. Caro Andrea, intanto buonasera e bentornato anche a lei. Buonasera e grazie. Senta Andrea, che cosa avete combinato con questa ricerca? Avete trovato delle cose meravigliose? Sì, ho trovato delle cose interessanti, perché questo è il secondo rapporto sulla sicurezza stradale. Quest'anno 2009 era stato dedicato ai camion e l'anno scorso 2008 alle automobili. Nel leggere il 2009 ho riscontrato dei dati che mi ricordavano quelli dello scorso anno, li ho confrontati in particolare sul comportamento che causa incidenti, e ne sono uscite delle informazioni estremamente estremamente curiosi e interessanti. Alla domanda chi guida meglio o chi guida peggio c'è un ex aequo sostanzialmente. Ah, un ex aequo, ecco, questo è il primo dato interessante. Se guardiamo le cause, il fattore umano, che nel 94% è la causa principale degli incidenti stradali, ci sono quattro tipologie di errori comportamentali che sono comuni in entrambe le categorie. Poi chi lo commette di più, chi meno, a seconda, proprio legato anche all'utilizzo del mezzo, però sono sempre le stesse e sono velocità, errori di, quindi la velocità eccessiva, errori in svolta, mancata precedenza e mancata distanza di sicurezza. Scusi Andrea, si parlava molto di distrazione, vi risulta ancora che sia una delle cause principali, cellulare, radio, auricolari? Sì, la distrazione è sicuramente uno dei fattori che sta emergendo dagli studi. Per quanto riguarda gli studi sull'utilizzo del cellulare non ci sono ancora ricerche molto approfondite, però nella classificazione per età i giovani purtroppo sono sempre loro penalizzati, sembra quasi che li si voglia criminalizzare. Uno dei fattori di rischio è dato dalla distrazione, che non è necessariamente magari solo l'uso del cellulare o la radio, può essere anche la compagnia a bordo che distrae. La mancanza di esperienza alla guida a volte fa commettere degli errori molto banali, e cosa che invece magari per quanto riguarda il camionista è meno evidente. Sì, questo è vero, eppure c'è sempre stato, no, quest'odio di cui parlavo all'inizio, perché gli uni accusano gli altri proprio per i comportamenti stradali. Cosa ne pensa lei? Io ritengo che possa essere ascrivibile intanto alla diversa collocazione proprio spaziale del conducente: uno è più basso, l'altro più alto. Il camionista ha la tendenza ad avere un senso maggiore di sicurezza e di controllo della strada, perché la domina dall'alto, e non sempre è così. L'automobilista, avendo un veicolo che è più veloce e che può scattare meglio, cerca di avere più strada e si trovano un po' come cane e gatto. Di fatto, guardando alcuni comportamenti che vanno magari verso terzi soggetti, è interessante notare come nella tipologia scorretto comportamento verso i pedoni c'è un ex aequo. Il 4,4% dei casi di incidenti che hanno coinvolto automobili nei confronti del soggetto più debole in assoluto, che è il pedone, è equiparato al 4,2% dei camionisti. Quindi alla fine i comportamenti, proprio perché stiamo parlando di persone, non stiamo parlando di due razze aliene diverse, ma di esseri umani, i comportamenti sono molto simili. Si possono differenziare in alcuni aspetti dovuti alla tipologia del mezzo, tant'è che la velocità è al terzo posto come causa di incidente per i camionisti, dovuto anche alla massa del veicolo, mentre al primo posto per gli automobilisti. La precedenza invece è un errore classico dei camionisti, e al terzo posto per gli automobilisti. E questo per quanto riguarda gli aspetti diciamo comportamentali. Sì, sì. Ci sono altri punti interessanti che sono correlati all'età, agli studi che sono stati fatti per capire quali erano state le cause dell'incidente e se c'era una connessione, una correlazione con l'età e gli anni di esperienza, e anche qua ci sono degli aspetti interessanti. L'eccesso di velocità è l'errore più frequente dei giovani conducenti, che siano automobilisti o camionisti, hanno una curva identica. A 18 anni commettono molto più infrazioni, fino a che arrivano a 35 anni ne commettono molto meno, legate alla velocità, e poi si tende a stabilizzare. Curiosa è la tendenza dell'alcol. Anche qui si criminalizzano spesso i ragazzi perché fanno incidenti sotto effetto dell'alcol. Di fatto è una curva che, se andiamo a guardarla bene, è abbastanza simile e piatta per tutte le fasce di età. Quello che colpisce, che mi ha colpito, è che per i giovani automobilisti tra i 18 e i 25 anni la curva tende a crescere, cioè ci sono più incidenti collegabili all'alcol, cosa che invece per i camionisti tende a scendere. Io non sono un sociologo, però darei un'interpretazione di questo proviamo tipo. Proviamo e chiudiamo, sì. Ecco, per i giovani automobilisti c'è l'effetto dell'happy hour del sabato sera. Il camionista, essendo un professionista, si rende conto molto prima che guidare sotto l'effetto dell'alcol è pericoloso. E sarebbe auspicabile, Dalisca, che tutti e due non bevessero, naturalmente. Questo lo diciamo sempre, è giusto ripeterlo, ma insomma, con un mezzo che pesa 15-20 volte il nostro peso è davvero pericoloso. Grazie infatti di cuore da Decra, Andrea Dalisca, grazie, a presto e buona serata. Grazie a voi, arrivederci. Con la sua voce termina anche la nostra trasmissione, che torna però puntuale alle ore 21 sabato prossimo. Radio24.it per tutte le informazioni e la nostra email 4ruote@radio24.it. Da Peter in regia, da Roberto Rasia al microfono, grazie, buon ascolto dei programmi di Radio 24, ma soprattutto buona guida.